get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Il primo giorno della prima elementare, Precious indossava un vestitino rosa sudicio, imbrattato dell'odore di lui, e poi in seconda, in terza, in quarta. Era come se la notte appartenesse al padre e lei facesse parte della notte. Invisibile buio scompariva, talmente buio che lei aveva smesso di parlare, di giocare a palla, di riempire gli spazi tra i puntini, di identificare forme e colori. Che differenza faceva se la macchia viola era quadrata o tonda? O per dire, se era viola, azzurra o gialla? Che differenza faceva se le lettere erano scritte sulla pagina in un modo o nell'altro? Se il tetto di quella casa colorata puntava alla sommità o al piede della pagina? A 6 anni Precious confinò il libro, la bambola, la corda da saltare, la propria testa, il proprio io, giù nel più assoluto silenzio, in fondo all'aula. Ciao a tutte da Deborah e benvenute alla nostra 16ª trasmissione. Il brano che Laura vi ha appena letto introduce l'argomento di questa trasmissione ed è tratto dal libro Push, la storia di Precious Jones, della californiana Ramona Lofton, in arte Sapphire. È un libro tremendo e nello stesso tempo dolcissimo, soffocante, ma ricco di speranza per una bambina come Precious, che è nata in una famiglia difficile di Harlem e sottoposta alle violenze sessuali e fisiche del padre e della madre, trova la forza di riscattarsi e di studiare per dare a se stessa ed ai bambini avuti dal padre la voglia di vivere e di migliorarsi. L'argomento di oggi è la violenza alle donne, ma non parleremo tanto di leggi, quanto di quello che le stesse donne fanno per combatterla. Da questo argomento così difficile ne trarremo una inaspettata energia dalle parole di due donne speciali, nell'intervista che abbiamo fatto a Rosa Alberti e Yvonne Beltram, rispettivamente presidente e operatrice della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. What's up, girl? Hi, nothing much, just chilling. Why you ain't kicking it there with Sherelle on you? I don't know, just tripping off dude. What's up with him? I heard about that. Why don't I just tell you like this? What's up? Met him at the park, a family reunion, and we kicked it until it got dark. Chilling, conversating, tossing up drinks and getting too sparked. His brother had it going on, he was dark and fine. Talking to just my kind, drinking up like wine. He dropped his digits, so I dropped mine. Conversation sweet as we've been talking up on the telephone. Said he could not wait till the next time that we meet, so brother, bring it out. I took him to my granny's house so she could analyze the game to see what he's all about. It was all good, she gave 2 thumbs up cause she was real impressed with the rose he bought, the way he walked and talked and his life in check. Taking me out for dinners and buying me any and everything became nothing new. Both the love of me, there's nothing that he wouldn't do. And I am tripping out, I never knew love like this before. Damn, how far could it really go? My girls are tripping, they say I don't wanna kick it, but I'd rather be out with my man, so later for them tricking. I thought this brother really was a friend of me, but now it seems like he won't stop hitting me. I thought this brother really was a friend of me, but in reality I'm sleeping with the enemy. I thought this brother really was a friend of me, but now it seems like he won't stop hitting me. I thought this brother really was a friend of me, but in reality I'm sleeping with the enemy. I never could win and should've had left when he was done to me. What he did, what should I do? I'm in too deep, got his ring and 2 kids stuck all up in his neck while other people get deceived. I know I should leave and it's hard to believe, but deep inside he still loves me. Wiping away tears from my eyes, wonder what happened to Mr. Sweet, trying to disregard his put downs and with no feelings. Honey, other chick praying to God to help me handle this. Cause it seems like every day he gets worse and most scandalous. Having to hug him and hold him tight, tell him he's the only one in my world. Playing the role to stop the hits from coming to daddy's little girl. Situation is changing too, and for the worse now. Cause he ain't only hitting mama, he hit on mama's child. Gotta find a way like Tina Turner to set my mom free. His sister be calling me up, telling me my brother ain't just gonna let you leave. Now I'm at the range with the peace practicing. Bow to my kids, will never touch us again. But it was up. Now this be the biggest throwdown. Didn't even feel the fall from the fist when I hit the ground. My eyes open to red, I'm seeing demons. Daddy, nope, I'm up the hole was all I heard. My kids screaming, rushed into the room, and now I'm down the straight, kill this man. Emptied the clip and took the law in my own hands. Wondering why I had to lay him 6 feet in the dirt. But then again, true love ain't supposed to hurt. This story is fiction, but it's all so very true. It might not be happening to me, but it could be happening to you. Battering is the number one health risk to women in the U.S. today. Over 2 million women will be beaten this year, and over 1,400 of these women will die. Statistics show a woman is abused every 15 seconds in this country. 17% of pregnant women are, and overall more than 50% of women will be. The shelters are full, and there are less shelters for women than there are animal shelters. 50% of homeless women are in flight now because of abusive relationships. 4 to 5 women die every day by the hands of their lovers or their current spouses. And 3 or 4 of these women will die while they are trying to leave or after they have already left. 30% of all female homicides are killed by their boyfriends, and it is the leading case in every emergency room. Frustration and poor communication is a man's best defense. And Congress is just now considering the Violence Against Women Act to protect our equal and civil rights. The solution is education, and education is just the start. Il brano che abbiamo ascoltato era Sleeping with the Enemy, delle Misery, ed è tratto dall'LP Free to Fight, che ha come sottotitolo un progetto interattivo di autodifesa e rappresenta una collezione di brani di donne commentati dalle voci delle protagoniste, in favore di una lotta vittima, la vita, scusate, vittime della violenza degli... Tramite il rap, incalzante del brano, le interpreti commentano le statistiche sui 2 milioni di donne vittime di abusi familiari in America, e sulle 45 donne al giorno che perdono la vita, vittime della violenza degli uomini. E come recita il titolo del brano, non siate semplicisti nel condannare l'atteggiamento a volte protezionistico di queste donne. A tutte, beh, devo dire soprattutto alle etero, può capitare di dormire con il nemico. Dalla Repubblica del 25 giugno apprendiamo che un artigiano quarantenne, fingendosi manager, ha contattato tramite annunci sui giornali decine di ragazze, offrendo posti inesistenti da stendista e commessa. Le ha sedotte come nel più banale dei film per la TV e, ricattandole, ha avuto con loro rapporti sessuali senza preservativo e soprattutto senza dire loro di essere malato di AIDS. Per fortuna una 22enne ha trovato la forza di denunciarlo e dopo un periodo a San Vittore ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Il garante per la privacy ha chiesto di non pubblicare la foto e il nome di quest'uomo. La cosa potrebbe anche essere giusta se lo stesso metro fosse stato adottato a febbraio per la prostituta di Ravenna. Evidentemente solo essere donna e per di più prostituta permette alla società di calpestare senza ritegno il tuo diritto alla privacy. O è forse la tutela del maschio che prevale sulla privacy della donna? Un caso analogo a quello che vi abbiamo raccontato è accaduto a Mayville, nello stato di New York, ma oggetto del ricatto per l'uomo che ha contagiato decine di teenager non era il lavoro ma la droga. Come dire, le vie della violenza sono infinite, se hai modo di sfruttare la dipendenza dalla droga o la disperazione dell'inutile ricerca di un posto di lavoro. Ma per fortuna, a volte al mondo c'è un po' di giustizia. 34 milioni di dollari, ovvero 60 miliardi di lire, sono stati pagati dalla Mitsubishi per risarcire le operaie della fabbrica di Normal nell'Illinois che dal 1987 hanno subito continue molestie sessuali durante l'orario di lavoro. Il manifesto del 12 giugno ci spiega che circa 300 operaie hanno denunciato di essere state apostrofate in modo particolarmente volgare, di essere state palpeggiate e di aver avuto vere e proprie richieste di prestazioni sessuali, pena gravi rappresaglie sul lavoro, da parte di impiegati e dirigenti della società. La Equal Employment Opportunity Commission ha intentato la causa contro la Mitsubishi nel 1966, sì, domani, nel 1996, vincendola 2 anni dopo ed ottenendo, oltre al risarcimento in denaro, un accordo extragiudiziale in fase di approvazione, che prevede che l'azienda organizzi corsi di addestramento per la prevenzione di casi di molestia ed un'accurata indagine sulle denunce fatte dalle donne negli ultimi anni. Una terribile notizia questa volta arriva dall'Indonesia. Sempre il manifesto del 12 giugno riporta quanto affermato dal quotidiano International Herald Tribune. Oltre 100 donne di origine cinese tra i 10 e i 55 anni sono state stuprate ed in alcuni casi uccise durante i disordini che hanno sconvolto Giacarta prima delle dimissioni del presidente Suharto. Le violenze sembrano essere state perpetrate da gruppi nazionalisti non meglio identificati, che infierivano sulle vittime accusandole di essere cinesi e non musulmane. Infatti in Indonesia i cinesi sono solo il 3% dei 200 milioni della popolazione. Pare che le organizzazioni per la tutela dei diritti umani e le associazioni femminili sospettino il coinvolgimento di settori delle forze armate tra gli organizzatori dei tumulti. Rita Colibonso, direttora dell'associazione femminile Mitra Perempuan, ha dichiarato che dopo le violenze alcune donne si sono tolte la vita. E chi penserà agli autori delle violenze? E concludiamo con un'iniziativa pratica e fruttuosa, ben differente negli scopi e nelle modalità dagli 8 marzo italiani degli ultimi anni. Quest'anno si è svolto a New York il primo V-Day, dove V sta per Valentine. La manifestazione si è svolta il 14 febbraio, quasi a combatterne il significato esclusivamente commerciale. Ma V sta anche per Violence e Vagina, allo scopo di raccogliere fondi per le organizzazioni che combattono la violenza alle donne, di unificarne gli sforzi e di promuovere una diversa coscienza sul fenomeno, è stata messa in scena la pièce teatrale di Eve Ensler, The Vagina Monologues, interpretata tra le altre da Glenn Close, Whoopi Goldberg, Winona Ryder, Susan Sarandon, Gloria Steinem, Marisa Tomei e Lily Tomlin. Eve ha lavorato per anni sugli abusi sessuali e sulla violenza e, come lei stessa ha affermato, portare in tournée in America il suo spettacolo le ha dato la terrificante consapevolezza di quanto la violenza sia diffusa e quasi accettata nella costruzione della società americana. Lo spettacolo è basato, con ironia e profondità di sentimenti, sull'intervista a donne di tutto il mondo, relative ad un oggetto fondamentale ma ricco di tabù, la vagina. Si passa dalla drammaticità dello stupro, usato come arma di guerra in Bosnia, all'ironia della iniziazione al sesso di una ragazza di 13 anni. La nostra Sapphire, poeta ed autrice del libro di cui abbiamo letto un brano all'inizio della trasmissione, ha detto dello spettacolo che è ricco dell'intelligenza e del coraggio dovuto all'aver voluto esplorare il tema della violenza, descrivendo le esperienze di donne completamente diverse, quasi a voler rappresentare un'esplorazione antropologica. Auguriamo gran successo alle prossime edizioni del V-Day e soprattutto a donne come Eve Ensler, che dopo il monologo sulla vagina ha portato a Broadway Necessary Targets, interpretato da Meryl Streep, Angelica Houston e Cherry Jones, e di cui incassi sono stati devoluti alle donne rifugiate dalla Bosnia. Eva, come prossimo lavoro, ha in mente una sceneggiatura sulle donne in carcere. Questo sì che è impegno politico e per di più con i piedi ben per terra. Il nostro appuntamento sulla musica lesbica indipendente ci vede oggi in compagnia delle francesi Subway con Keep On. I can't wait. Gli appuntamenti. Giovedì 2 luglio alle 19 il gruppo di lavoro sull'omosessualità di Fondazione Comunista organizza un incontro presso lo spazio dibattiti della Festa di Liberazione ai giardini della Basilica di San Paolo su Femminismo, Movimento Omosessuale, Lotta di Classe, l'altro piano degli anni 70. Parteciperanno Lidia Campagnano, Elettra Deiana e Deborah Di Cave. Dal 2 al 5 luglio, nell'ambito della rassegna Garofano Verde, il Teatro Flaiano è riservato a Gloria Sapio e Paola Sambo con Peggy Gracie, Dos Lesbos, un testo americano sulla convivenza tra due lesbiche. Grande fermento ad Amsterdam dal 1 all'8 agosto per i Gay Games 1998, la grande kermesse sportiva con ben 30 discipline in concorso, che tra 4 anni si ripeterà in Australia. Numerosi gli spazi dedicati solo alle donne, tra cui un Women's Festival teatrale con musica, danza e piccole rappresentazioni. Per informazioni il sito ufficiale dei Gay Games è www.gaygames.nl. Siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista autogestito 87900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ora qui in radio al 491-750, ripeto 491-750, oppure lasciate un messaggio o inviate un fax al 6864-201. Ogni lunedì dalle 20:30 ci troverete al Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1A. Siamo alla terza settimana lesbica con Rosa Alberti e Yvonne Beltran della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Allora, volevamo chiedere a Rosa come era nato il progetto qui a Bologna della casa. Dunque, il progetto è nato nel 1985 da un gruppo di donne che provenivano dal movimento femminista e che si erano ritrovate in occasione di una serie di stupri che c'erano stati in città e che avevano fatto molto pensare, e quindi ci avevano trovato un vecchio gruppo, un gruppetto, perché in realtà pensavamo che fosse il momento di aprire a Bologna anche un'esperienza di sostegno soprattutto per le donne maltrattate. Quindi noi pensavamo che in realtà il maltrattamento era la violenza che le donne subivano di più, il maltrattamento all'interno della famiglia, che era quello di cui meno si parlava, perché era quello meno eclatante, meno conosciuto, però era quello che aveva più bisogno di ascolto. Quindi noi dall'85 abbiamo passato i primi anni a conoscere le esperienze che già esistevano negli altri paesi europei e a discutere fra di noi che cosa volevamo, come pensavamo di fare questo progetto. E nel 90 abbiamo firmato questa convenzione per un'apertura di questo centro con una casa, perché questo era un vincolo che noi ritenevamo indispensabile, cioè non potevamo aprire un centro se non potevamo dare ad alcune donne, non a tutte, la possibilità di avere uno spazio protetto, nel senso uno spazio segreto, perché per noi protetto vuol dire poi la segretezza, dove potersi rifugiare per le donne che erano in pericolo. Quindi nel 90 è partito questo progetto che si aveva come base il riconoscimento dell'autonomia del percorso di ogni donna, il riconoscimento di questa soggettività e metterci noi nella posizione di aiuto, tra virgolette, una parola che a me non piace, però in realtà è l'unica che si può usare, per dargli la possibilità di uno spazio che le sostenesse nel loro percorso di uscita dal maltrattamento, che per ogni donna è diverso. E quindi per noi era fondamentale questo, riconoscere appunto l'autonomia di ogni donna e riconoscere che ogni donna ha un suo percorso. Quindi noi mettevamo la nostra esperienza, la nostra storia, quello che conoscevamo, diciamo, al servizio di queste donne. E dal 90 siamo partite. Ok. Dunque, l'altra cosa che volevamo chiedere, sappiamo che spesso è molto difficile il rapporto tra le donne maltrattate e la polizia o i carabinieri che siano, ma nel caso in cui le donne riuscissero a portare in tribunale gli uomini, i mariti o compagni che siano che le maltrattano, che tipo di legislazione c'è in Italia che le aiuti nel loro percorso con questi compagni? Beh, non esiste una legislazione in specifico sul maltrattamento, perché lo stesso maltrattamento anche a livello di denuncia non è riconosciuto. Noi abbiamo oramai, appunto dal 90 sono quasi 10 anni, e poi comunque come noi altre case in Italia più o meno sono nate in quello stesso periodo. Io credo che tra le 2000 passa donne che si sono rivolte al nostro centro, credo che solo due o tre siano arrivate ad un processo, e questo non perché c'era il maltrattamento, ma perché c'erano altri reati. Quindi la denuncia di maltrattamento è una denuncia che va a perdersi, perché la storia del maltrattamento è una storia che va a perdersi secondo le forze dell'ordine e i magistrati, perché normalmente le donne maltrattate hanno un percorso, una loro storia che le può portare in un certo periodo a fare tantissime denunce, poi a ritirarne, poi a rifarne, quindi come dire, non sono credibili da un punto di vista di forze dell'ordine o di magistrati, perché non c'è una cultura, non c'è nemmeno non c'è una conoscenza, una formazione. Non a caso, ad esempio, noi a Bologna stiamo facendo proprio adesso in questo periodo un corso per, chiamiamoli così, operatrici di forze dell'ordine, operatori di forze dell'ordine, proprio per raccontare la nostra esperienza e perché si forma una formazione sul maltrattamento, perché se no si va secondo comportamenti che per anni le forze dell'ordine e i servizi sociali hanno avuto rispetto alle donne che pigliavano le botte dai mariti o dai compagni o dai fidanzati, che magari andavano a denunciare, la settimana dopo ritiravano la denuncia, quindi non erano più credibili, no? E quindi, come dire, di poco conto, ecco. Le cose stanno cambiando perché sono nati molti centri in Italia, si stanno muovendo anche le istituzioni, abbiamo la Finocchiaro che ha fatto questa proposta che i centri hanno sostenuto in quanto riconosce la pericolosità del marito maltrattatore. Finalmente non si aiutano più solo le donne, ma si cerca anche di capire che c'è un marito maltrattatore, quindi questo è un dato evidente. Quindi lei con questa proposta di allontanamento del coniuge ha fatto un primo passo, credo abbastanza importante, perché perlomeno toglie le donne dallo stato di pericolosità, che è il momento più difficile per loro, perché è difficile scegliere e decidere di venire via da una persona con cui tu hai comunque investito, perché ricordiamo che sono sempre relazioni personali, no? Non stiamo parlando di un individuo, di un estraneo che tu incontri per strada, sono sempre storie dove tu hai investito comunque, quindi come dire, diventa difficile, e anche per il meccanismo per cui agisce la violenza all'uomo, diventa difficile credere che tu puoi dire basta quello che sta succedendo, e soprattutto pensare che con questa persona con cui tu hai investito qualcosa all'inizio non hai più nulla da fare, anzi questa sta sopraffacendo te, ti sta distruggendo. Quindi non è un percorso lineare, e di conseguenza a nostro parere anche le forze dell'ordine, i magistrati e anche i servizi sociali devono tener conto di questo, e devono tener conto dell'esperienza dei centri che ci sono in Italia, perché è un'esperienza che ti può, come dire, può aiutare. Noi non siamo loro, loro non sono noi, noi siamo dei centri femministi, loro sono poliziotti, magistrati, assistenti sociali, però tutti quanti entriamo in contatto con le donne che decidono di uscire dal maltrattamento, e credo che ognuno di noi debba in un qualche modo portare all'altro la propria esperienza. Grazie. A Yvonne invece volevamo chiedere qual è la situazione delle donne immigrate. Dando un occhio ai dati che voi avete sul vostro sito internet, abbiamo visto che ci sono molte donne immigrate che si rivolgono al vostro centro. Volevamo sapere se c'erano grosse differenze tra le donne italiane che si rivolgono a voi e le donne immigrate. Sì, io mi occupo all'interno della Cassa delle Donne delle case di ospitalità, no? Dove sicuramente oggi comunque non c'è una differenza, ci sono donne italiane tanto quanto le donne straniere. Forse rispetto alle donne immigrate si vede una differenza notevole del fatto che un altro tipo di violenza succede anche. Cioè abbiamo una violenza dell'uomo, e che questa l'abbiamo notato come nuova, no? Dell'uomo italiano che a una certa età, perché non ha trovato la compagna o la donna, e prende e va ai paesi dell'altro continente, come dire Colombia, anche Nicaragua, Cuba ultimamente, no? E adesso va un po' di moda l'America Latina, perché poi è un po' tutto così. e li portano qua e poi dopo li fanno subire di tutto, insomma, perché tanto sono io che ti ho portato via della miseria, eccetera, no? E questo l'abbiamo notato, che ci sono ultimamente abbastanza situazioni, no? Le altre delle donne straniere sono situazioni comunque anche sposate con i suoi connazionali e poi vengono qua e un po' per tutta la situazione che si vivono, eccetera, un marito già violento là, qua, questo fa così che sia ancora di più. Però comunque il problema grosso, soprattutto per le donne straniere, è che in mancanza di una rete familiare, che tu arrivi qua senza conoscere nessuno, senza molte volte sapere anche l'idioma, di non capire o avere solo un'immagine che l'Italia forse era diversa, e si trovano con che non è una situazione così, no? E devono lottare moltissimo, cioè anche perché l'avvicinamento ai servizi sociali è molto difficile rispetto alle donne italiane che già hanno. Qua c'è molto timore, uno perché non si conosce, un altro perché forse comunque i documenti non sono sempre a posto, o per tante perché devono inserirsi, no? E allora i servizi sociali arrivano molto dopo. Arrivano dopo e le richieste rispetto a loro sono, non c'è una differenza se sono più grandi o no rispetto alle donne italiane, su questo noi, i servizi si muovono uguale, no? Per cui ci arrivano molto più tardi a chiedere delle soluzioni o a cercarle, a cercarle insieme. Allora sicuramente è più difficile, cioè è più difficile anche dopo all'interno della casa, quando escono dopo di essere stato ospitato un periodo di tempo che all'inizio ritenevamo un massimo di 3 mesi, ma oggi comunque siamo costrette, fra virgolette, a allungare un po' il tempo di permanenza sia per donne italiane che per donne straniere, perché abbiamo una situazione che le donne sono sempre più povere, cioè se una volta arrivavano che avevano molti impiegati o qualsiasi lavoro, adesso no. Per cui significa che tutto il suo percorso si allunga, perché riuscire a trovare una risorsa economica di una donna che ha subito maltrattamenti per anni, no? Mettersi sul mercato che ne ha 45 anni o di più, cioè, è molto difficile. Questo, una piccola differenza rispetto alle donne straniere, che quando riescono a trovare questo, il problema è che non le affittano le case. Però comunque è difficile trovare una casa sia per tutte e due, no? Perché il mercato costa tantissimo, perché una donna deve pagare l'avvocato, che costa tanto, perché deve ricostruirsi tutta la vita, perché generalmente perde. L'unico che mi interessa è che lui mi lasci in pace, e dall'altra parte c'è ovviamente un approfitto di questo, per cui molte volte lui rimane anche con la casa, no? Lei si salva, fra virgolette, si ha figli, perché comunque una donna da sola i servizi non intervengono, assolutamente, no? Allora sì, forse per trovare una casa è un attimo più difficile. Per cui i problemi che vedo rispetto alle donne straniere oggi è comunque una mancanza di informazione. Però in genere, soprattutto, cioè, non c'è neanche molta informazione sulla casa delle donne, dico, cioè, noi siamo arrivati anche molto per tant'anni delle donne, eccetera, no? L'ultima domanda prima di lasciarvi era se in Italia ci sono dei dati a livello nazionale rispetto ai maltrattamenti che subiscono le donne. Ma a livello nazionale, raccolti in una statistica nazionale, no. Ci sono tantissimi dati, nel senso che tu considera che oggi in Italia tra centri un po' come i nostri, no? Che hanno quindi una struttura pubblica e la possibilità di ospitare, centri che fanno solo accoglienza, centri che fanno solo linee telefoniche, siamo in 60, quindi i dati in realtà sono tantissimi. Non c'è una raccolta a livello nazionale. Quando noi facevamo 2 anni fa il convegno nazionale delle case e dei centri, venne fatta una proiezione su alcuni dati raccolti che parlava di 10.000 donne che si rivolgevano all'anno appunto in questi vari diversi centri. Sicuramente il dato anche a livello mondiale è un dato allarmante, cioè non allarmante, secondo me è un dato che va letto per quello che è. E la famiglia, come dicevamo, è un luogo pericoloso, cioè noi abbiamo fatto un convegno con questo titolo, la famiglia è un luogo pericoloso. Perché comunque la violenza che viene esercitata all'interno della famiglia è una violenza che c'è sempre stata, che c'è, che ce n'è tanta, e che quindi, come dire, i centri ne fanno rilevare una piccola parte, perché come diceva Yvonne, ce n'è conoscenza ma non tanta, insomma, cioè ogni città poi a seconda della realtà che ha riesce a farsi conoscere non sempre tanto, il più delle volte sono i tantam delle donne, come dire, che ognuna all'altra racconta e dice che c'è un posto che è dalla loro parte. Però ecco, in Emilia Romagna noi abbiamo fatto adesso una ricerca che sta mettendo insieme i dati delle case dell'Emilia Romagna, che sono tanti, insomma, i centri in Emilia sono tanti. Quindi potrà essere un inizio, come dire. Ci vogliono i soldi però per fare queste cose. E visto che invece i centri hanno questo grosso problema dei finanziamenti, come dire, sono quei progetti di ricerca che tu hai nel cassetto e che poi prima o poi troverai qualcuno che te li finanzierà, insomma. E il rapporto col Comune di Bologna? Il rapporto col Comune di Bologna è un rapporto, come dire, certo, io non mi sento di dire che noi abbiamo un rapporto difficile, perché in realtà siamo state l'unico centro in Italia che è riuscito a firmare, questo negli anni 90, una convenzione dove l'ente pubblico, che in quel caso e sono ancora il comune e la provincia, non mettevano assolutamente bocca né si sono mai permessi di osare e dire qualcosa su come gestivamo noi il centro. Quindi questo è stato in un certo senso rivoluzionario, perché un'istituzione ha riconosciuto la sua impossibilità, incapacità di poter rispondere a un bisogno, ma ha anche riconosciuto la capacità di un'associazione di donne di essere in grado di poter mettere in piedi questo progetto, e quindi ha finanziato, come dire, a scatola chiusa, no? E se non appoggiando questa cosa, considera che quando noi firmammo la convenzione c'era un assessore donna, e questo, come dire, passa attraverso le relazioni che tu puoi costruire, ed è passato attraverso questo, perché anche quando abbiamo fatto l'ultimo rinnovo un anno fa, i commenti e le obiezioni da parte dei gruppi che non erano di maggioranza sono sempre stati quelli: ma come facciamo a gestire delle donne che non si conoscono, non si sa che cosa vogliono, che cosa fanno, una cosa di questo genere, gli diamo tutti questi soldi. Io credo che dei luoghi come i centri antiviolenza non debbano scomparire, non possono. Però è anche vero che tu investi tante energie che potresti appunto investire in altro, e sicuramente sempre a vantaggio delle donne. Cioè, anche noi ovviamente pensiamo che i centri debbano tutt'altro che scomparire, che anzi abbiano bisogno di un aiuto e di una strategia politica ben diversa forse da quella che c'è adesso. Grazie mille. Ciao. La Casa delle Donne per non subire violenza è a Bologna, in via dei Poeti numero 4. Il telefono è 051 265 700, il fax 051 261 765, l'email casadonne@orlando.women.it. L'intervista che avete ascoltato è stata raccolta durante la terza settimana lesbica che si è tenuta a Bologna dal 3 al 7 giugno di quest'anno. Ed ora un po' di musica con la cantautrice catanese Carmen Consoli, che non è per niente stanca. Beata lei! preso il volo. Nascoste di Paola Sharp è un libro bellissimo e complesso, scritto dalla Sharp con la competenza della sua professione di avvocata civilista a New York e la passione nella lotta per le ingiustizie contro le donne. Tratta di discriminazione e di violenza nelle loro variegate accezioni, dalla violenza psicologica e fisica perpetrata da un brillante avvocato penalista nell'ambito della sua famiglia a quella di un padre che abusa del figlio maschio di 3 anni, protetto dalla patina di perbenismo che gli dà una quasi laurea in teologia, dalla discriminazione nei confronti dei diversi, in questo caso i malati psichici, a quella verso le donne, che non hanno i soldi per pagarsi gli avvocati migliori nelle cause di affidamento. Partendo da una profonda analisi delle leggi che vigevano in alcuni stati americani alla fine degli anni 70 e che permettevano ai padri e ai mariti violenti di continuare ad avere diritti sui figli e sulle mogli, la Sharp racconta la difficile ma splendida avventura di una donna, Mildred Steck, che si ribella al sistema, scappa per proteggere suo figlio e se stessa e decide di non permettere più alla legge di fare del male alle donne che inutilmente cercano aiuto contro le violenze dei mariti. Organizza una rete clandestina, la Ferrovia Steck, che grazie alle possibilità di anonimato e comunicazione offerte da internet permette alle donne in difficoltà di fuggire dalla violenza delle proprie famiglie, procurando loro aiuti e documenti falsi. L'avvocata Melanie Rattler, che ha lottato tutta una vita contro le discriminazioni per riuscire ad essere la prima donna giudice federale in America, in un primo tempo assiste poco più che spettatrice alle vicende di Mildred, ma alla fine rinuncia all'incarico finalmente conquistato, non per sconfitta, ma perché non crede più in un sistema legislativo che permette il perpetrarsi di violenze così terribili. Da allora Melanie sarà al fianco di Mildred nella ferrovia, che salverà tante donne dalla quasi scientifica distruzione imposta dalla società perbenista americana. Leggetelo, ve lo consiglio. Per concludere, una notizia che per noi è molto importante. Sapete che uno dei nostri obiettivi è mandare in onda la nostra trasmissione anche in altre città italiane, con la stessa libertà che ci è stata garantita a Roma da Radio Onda Rossa e soprattutto dalle nostre compagne del Martedì Femminista Autogestito. Ebbene, grazie ad una donna lesbica, Elisabetta Torresin, da domani inizia la nostra collaborazione anche con Radio Sherwood di Padova, che manderà in onda alcune delle migliori trasmissioni del nostro ciclo romano. Il secondo filo è lanciato. A quando la ragnatela? Ciao a tutte! E a martedì prossimo, stessa ora, stessa radio. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.